Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, ancora un appuntamento dal vivo questa sera con Rock Wave Live. Ho qui in studio con me, abbiamo un musicista che arriva ancora una volta dagli Stati Uniti. Lui è Dirk Hamilton. Welcome, Dirk. Thank you, Steven. Steven, ok. suona molto cool il mio nome in inglese. Dirk è un grande amico dell'Italia, oltre che un grande musicista, parla anche abbastanza bene italiano. Deciderà lui, insomma, se preferisce rispondere in italiano o in inglese, a seconda di come si sente più a suo agio. È qui a trovarci perché è in Italia per un periodo di tempo abbastanza lungo, nel corso del quale suonerà diverse date in giro per il nostro paese, sempre grazie all'organizzazione Root Music, con cui cerchiamo di collaborare ogni volta che è possibile. Contemporaneamente mi è parso di aver capito che Dirk fa anche un po' di vacanza in Italia, visto che il nostro paese per lui è, non dico una seconda patria, ma insomma è un posto dove ha trascorso parecchio tempo. Adesso parleremo con lui naturalmente della sua carriera, della sua musica. Per presentarvelo, la cosa migliore è sentirlo cantare. Ci ha portato qua metà della sua discografia, che è molto ampia, e da uno di questi album si intitola More Songs From My Cool Life, e lui ha scelto appunto per aprire questo appuntamento musicale il brano intitolato Time to Close. Buon ascolto a tutti e poi ci risentiamo per ascoltarlo dal vivo. Dirk Hamilton. Something stupid going on here, and all the waiters here are rude. Candlelight distorts their faces and creates an ominous road, like someone's poisoning the road. Around the town, the dirty weather crawling out the TVs, comb the clowns, cyborg battalions comb the county, ballerina parachutes float down, when people unexpectedly explode. Fixed by things nobody saw. Paper cut becomes a mortal wound sometimes. The mortgage iris go and it will fall. It is a natural law. But you can wait in a while, or you can take an over. It's time to yet unlearned, hides the fact that the tide has turned. Every sentence said rings out in rhyme, They were the poets I heard for the first time. And every song is spontaneously composed. And every illusion exposed. When the God that they invented blows his nose. When the cosmos cracks and it all implodes. And everything is nothing now. So just laugh and say it's time to close. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, qui abbiamo sentito Dirk con la sua band, un Dirk Hamilton energico, elettrico, in questo brano intitolato Time to Close, che è un po' strano per cominciare la trasmissione, perché Time to Close significa è ora di chiudere. Esatto. Ironico, no? È ironico, esatto. E invece abbiamo cominciato. Allora, Dirk è qua, dal vivo lo sentiremo nell'altra sua veste, quella di musicista in acustico, anche se ha una sfilza di armoniche. Quelle che in inglese chiamano harp. Stavamo appunto discutendo della differenza tra armonica e harp. E, ecco, dicevo appunto, lui viene spesso in Italia, ma naturalmente la sua patria sono gli Stati Uniti. È nato in Indiana, giusto? Sì. Però si è trasferito subito in California. A che età? How old were you when you moved to California? 4 years old. Ok, 4 anni, per cui, so you basically don't remember anything about Indiana, you're a Californian. No, I remember lots, I remember some about Indiana until I was 4. Then I remember a lot about Indiana, especially when we go back and visit sometimes. And especially when I was touring, I would often end a tour, then spend time with my extended family in Indiana. To make up for lost time with them while I was growing up in California. E posso parlare anche in italiano. Okay. Come parla Tarzan inglese. No. Sì, traduco, comunque ha detto si è trasferito in California quando aveva 4 anni, però poi è tornato in Indiana diverse volte, perché lì ha, diciamo, un'ampia parte della sua famiglia, e cercava anche a volte di concludere le tournée proprio in Indiana, in maniera da poter stare più tempo con questi parenti, cugini, zii, adesso non so chi siano. E, per noi che siamo qua, l'Indiana e la California sono due stati americani, però per un americano fra l'Indiana e la California ci sono delle grosse differenze. There are big differences between Indiana and California. Crescendo come musicista, è stato meglio essere in California? Do you think that moving to California was good for your music? Definitely. Sicuramente. I probably would have ended up in the steel mills if I had stayed there. Si è detto, se fossi rimasto in Indiana, probabilmente sarei finito a lavorare in un'acciaieria, perché l'Indiana è uno stato industriale. E la California, insomma, un po' di anni fa soprattutto, era una specie di paradiso per la musica. Sì. Back then, sono sicuro che Dirk aveva avuto modo di vedere dal vivo e conoscere una enorme quantità di musicisti, e magari anche qualcuno che noi avremmo voluto tanto vedere e non siamo mai riusciti a vedere in Italia. Se devi dire un ricordo, un concerto, che quando eri piccolo ti ha colpito? Just one concert that you saw when you were young that is still stuck in your mind. What name will you probably choose? Van Morrison at the Berklee Community Theater on my 21st birthday. Oh, that was a great birthday gift. Il giorno del suo 21esimo compleanno ha visto Van Morrison a Berklee. We don't want to know exactly what year was it, but after what record? Dopo che it was che disco aveva fatto? Probably Moondance. All'epoca di Moondance. Fantastico. Yeah, it was a great show. It's the first time I saw Van and I already was a big fan. La prima volta che lo vedeva me era già un grande fan, sicuramente uno dei grandissimi. Bene, Dirk, posso chiederti di suonarci qualcosa? Sei pronto, vedo. La chitarra è accordata, l'armonica è pronta. Ci puoi dire che canzone ci suoni? The title? Delete deletions. Delete deletions. Delete deletions. Tommy gun place on a polka dot gown. Gangster thinks that going down. But the hooker on the left might help him sleep. Holes in souls go dark and deep. In heaven is love, in hell you suffer. On either side of easy streets you'll find a gutter. There can be no saints where there is no sin. Delete deletions and take it all in. Take it all in. Deletions. Take it all in. The vinegar taste in the bell jar wine reminds you that the devil ain't far behind. Everybody's got a job to do. Everyone's a monkey trying to avoid a zoo. There is no justice to be seen. Dancing beggar, suffering queen. The game is fixed. Everybody wins. Delete deletions. Take it all in. Take it all in. Delete deletions. Everybody wins. History is written in the blood of wars. The truth is scratched on jailhouse doors. But are blown to splinters when the bombs rain down. A pretty little planet, my hometown. She's sitting on a rock, washing her feet. He's looking through her hair for bugs to eat. There's infinite dimensions, paper thin. Delete deletions, now take it all in. be delicious. But everybody wins. And all in all, it's all right. But all in all, it's all right. To be delicious. Take it all in. Questa era Delete Delicious, Delicious, una parola che faccio fatica a dire. È un brano che apre l'ultimo disco di Dirk, che si intitola Solo Mono, e già il titolo dice tutto del disco. Infatti da questo disco non ha scelto nessun brano da trasmettere, perché fondamentalmente quello che sentite fare lui qui in studio è esattamente quello che c'è in questo album, che è del 2012. E è in uscita anche un nuovo disco, ma di quello parleremo dopo. Penso che ce l'abbia anche portato qui in anteprima. Adesso lascio che risistemi la chitarra, la accordi. Insomma, lui si è trasferito, ha avuto questa fortuna di trasferirsi in California. Immagino che sia stata una scelta dei suoi genitori, chiaramente. Did your father move for his job to California? Yeah, he moved to California for, he thought he had better job opportunities there, I think. The usual story. Sì, appunto, suo padre si trasferì in California perché era uno stato che permetteva maggiori possibilità di lavoro, e lì non c'erano acciaierie, quindi Dirk non ha potuto andare a lavorare lì e si è messo a fare la musica. So you, for the lack of steel mills, you were forced to play music in California? No, nothing forced me. I just was drawn to it. I started playing when I was 8, learning how to play guitar. 8? And just did it for fun. But was your father that brought you a guitar at such a young age? No, I just wanted to play, so I kept asking them if they'd get me a guitar. At the age of 8. Until they finally got me one, and then I was happy for a while. Sì, ha detto, all'età di 8 anni ha cominciato a insistere con i suoi genitori che gli comprassero una chitarra. Alla fine hanno ceduto e per un po' appunto è stato contento. Quindi pare che la sua sia stata una vocazione di quelle senza alternative. So you never saw a different future for you, just music was for sure what you were going to do in your life? Nah, I just played guitar like I played football, just because I liked to. I just played and sang because I liked to play and sing. It was just something fun to do. Ah, lo faceva solo perché gli piaceva farlo, esattamente come giocare a football. I also used to separately write little short stories or poems just for fun. And it wasn't until Bob Dylan arrived that I realized, hey, you can put those two together. Si è detto che gli piaceva anche scrivere dei piccoli racconti e delle poesie, e poi è arrivato Dylan, lui ha cominciato a sentire le cose di Dylan e ha detto, ehi, pensa te, si possono anche mettere le due cose insieme, e questo è stato appunto l'inizio. Ha parlato prima del football, lui ha un fisico, you look like a football player, I mean you are the size that is good for that. Did you try also to be a pro in that or just for fun? I played serious ball in the school, but at one point I had to choose between sports and playing music and smoking marijuana. I chose playing music and smoking marijuana. Sì, ha detto che al college giocava anche a football, però a un certo punto si è dovuto decidere fra il football oppure l'alternativa era suonare la chitarra e fumare marijuana. Penso che ha scelto la seconda, anche perché in quegli anni era abbastanza diffusa. You were 67. Close to 1967. The Summer of Love in San Francisco. You were in San Francisco, that's what I was asking you. Sì, era a San Francisco nel 1967, quindi era proprio il ha vissuto, che fra l'altro a vederlo sembra impossibile che abbia questa età, you look much younger, you know, it's hard to believe that you were there back in those days. Yes, I'm very, very young at heart. Oh, that's for sure. Sì, sono molto giovane di cuore, di animo. Deve essere stata una cosa fantastica. E in quel momento San Francisco era il centro del mondo. I think that in those days San Francisco was the center of the world, of a certain world, of course. It all started there. The Beatles had come to visit, the Stones, everybody came, and kids from all over the world came to San Francisco. It was quite a time. Yeah, I can imagine that. It was the best of times, it was the worst of times. Okay, this is from a novel, but I don't remember which one. I don't either. Ok, ha citato un libro, detto, era il migliore dei tempi e il peggiore dei tempi. È un classico, sì, ma nessuno di noi due si ricorda di che libro era. Si diceva appunto che nel 67, la Summer of Love a San Francisco, arrivarono i Beatles, arrivarono i Rolling Stones, arrivarono un sacco di ragazzi da tutto il mondo. Fu veramente un momento magico, e Dirk ha avuto la fortuna di essere lì per viverlo, per essere parte di questo. E ci ascoltiamo adesso un altro brano da un suo album intitolato Alias I. Il pezzo si intitola For Diana. Diana is a real person, è una ragazza vera o just... She was my first love. Ah, è stato proprio il suo primo amore, quindi una cosa molto importante per chiunque. She was 15 and I was 14. And the song was written when I was 20 or something. Sì, lei aveva 15 anni e lui ne aveva 14. From an album on ABC Records called Alias I, way back. Sì, il disco Alias I, che è uno dei suoi primi album per la ABC Record. E appunto la canzone l'ha scritta qualche anno dopo, ma era comunque ancora molto molto giovane, aveva una ventina d'anni. For Diana, sempre da Dirk Hamilton. As often as always, I'm thinking, as seldom as sometimes, remembering. First love was young, my song had begun in the laughter of moments. I knew it was time for letting it into my head. The world was still young then and simple. Knew what was right then, though I was sinful. I made love in love, and God was above. He was smiling down on us, and that was the time for letting it into our heads. Thank you. bleeds my heart. It'll never die. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era For Diana. Non so. Se Diana l'ha mai sentita, do you know if this girl ever heard this song? Yes, I know she did. Okay. In fact, she came to a show in California a year or two ago with friends, and it's great seeing her. It was very strange. Ha detto che sa che la ragazza ha sentito questa canzone perché un paio d'anni fa è andata a un suo concerto in California. It was the first time you saw her. After, I don't know, 35 years? 30 years, I think. 30 anni che non si, years. Quasi 40 anni che non si vedevano. Deve essere stato veramente impressionante. A strong emotion, I suppose. And, it's good to see her. And was she happy for the song? Because the song is beautiful. La canzone è bellissima. Deve essere she molto said contenta. She knew about it. She had the record. She has the record. And... nothing more. Okay. But I think she was happy about having that song on the record. Sì, gli ha detto solo che possedeva il disco, ecco, ma non disse nient'altro, ma lui pensa insomma che fosse contenta, ma credo insomma qualsiasi donna dovrebbe essere felice di una simile dedica. Fra l'altro si sentiva le sonorità di questo album, di questa canzone in particolare, potevano ricordare certe cose del Van Morrison dei primi anni 70 che ha citato prima. E mentre andava la canzone, Dirk ci raccontava appunto di quando ha visto Jimi Hendrix al Fillmore, erano tutti un po', diciamo, alterati. È stata una sensazione straordinaria, possiamo solo invidiarlo per aver avuto questa possibilità di essere proprio testimone della storia. Seeing Jimi at Fillmore makes you like a witness of history, because that was a moment that signed the history of music. It's in every book. Yeah, I've seen a lot of history at this point. Ormai ho visto molta storia. So what people don't realize about Hendrix is, and this whole period, I mean, when Dylan came out, what the hell is that? Everybody loved Dylan. The Stones loved Dylan. The Beatles loved Dylan. Dylan was everyone's hero. Nobody had ever done music like that. So that's what's impossible to communicate. Yeah. And Hendrix did the same thing. He was so good and so weird, and it was so unique, it scared the hell out of me, and I had to leave. Really? Yeah. It was at the Fillmore. Si dice che adesso facciamo fatica a rendercene conto, ma quando uscivano questi personaggi erano veramente delle persone che erano in grado di cambiare il mondo, le cose. Quando uscì Dylan, i Beatles, gli Stones erano sconvolti ascoltando la sua musica. Quando arrivò Hendrix sembrava una cosa da un altro pianeta. Lui appunto lo ha visto lì al film, ha detto che letteralmente lo ha spaventato al punto che se n'è andato, perché i suoni che uscivano da quell'amplificazione erano un qualcosa che segnava un cambiamento d'epoca. Ma in effetti potete notarlo anche guardando ad esempio il film di Woodstock. Ci sono tanti gruppi che suonano fondamentalmente rock blues, e poi quando arriva arrivano prima gli Who e poi Hendrix, si sente proprio che fanno delle cose completamente diverse. Recently I rewatched Woodstock, the movie, the extended version, and as many bands were playing blues rock, rock blues or blues rock, but the Who and Hendrix, they are playing completely different and they sound completely different. So I understand what you were trying to say. Quindi sì, insomma, da lì si può capire la, la potenza rivoluzionaria di queste persone. Tra l'altro una cosa interessante è che Dylan non era, veniva considerato un maestro, ma aveva più o meno la stessa età di John Lennon, ad esempio. Dylan was seen as a master, but he was the same age of John he's Lennon. Little older than, I think he's a little older than those guys. Well, Lennon was the closest to him in age, I think. But yeah, everyone was just very reverent about Bob Dylan and to Bob Dylan. Sì, detto, tutti in erano molto, molto ossequiosi nei confronti di Dylan, perché appunto gli riconoscevano una statura superiore. Bene, it's up to you now to play something more. Adesso ci suona un altro brano. It's called Fly Free. In a land that God forget, he lies upon an army cat, and out of thin air he tries to conjure her. He used to think that it's God's will to march away, crusade and kill, but now the only truth for him resides in her. Oh, hey, oh, hey. Away, away, fly free over the storm, tracked by the ghost of a baby that was never born. Last night with the flashlight, she never bothered to ignite. She ran outside to chase a ringing cell phone. She tripped over an open grave and hit the ground like an ocean wave that seeped into the grass like it was going home. Away, away, fly free. Away, away. Tears on the ground there. She looked up at the moon and the stars like there was something to be found there. A stone is cast into a bog, and water splashes in the fog like little kids returning to their mother. A baby coos, a woman wails, a father builds a ship that sails three souls into a single sweet forever. Away, away. Away, away, fly free. It's only life and death. Perhaps a whole lot more, but nothing less. Fly free, fly free. Fly Free, è un altro brano che fa parte dell'album solo mono. E la storia di Dirk chiaramente è molto lunga, potete trovarla eventualmente sul suo sito. E passa una serie di tappe che sono quasi uno standard ormai per moltissimi musicisti, cioè un inizio con un contratto discografico, con una grossa etichetta, un paio di dischi, poi appunto queste grosse etichette prendono i musicisti, li buttano, magari non li seguono adeguatamente nella promozione e li lasciano in un limbo, perché appunto si trovano da passare da una situazione, diciamo, di sicurezza ad una problematica. Solo, diciamo, dei musicisti che sono passati di qua, Willie Nile, Carolyn Mass, Mariko Truffello, la storia è sempre la stessa. Reading your history, I made 4 records with big labels. Sì, 4. Lui ne ha fatti 4 con I was a big failure. Sì, ha detto. E lui di dischi ne ha fatti 4, quindi è stato un grande fallimento. Ma è vero, sono molto orgoglioso di questo lavoro. Chissà, i dischi sono molto belli, quindi il problema in questo caso non è dei musicisti, ma è dell'etichetta. The same story happens to other musicians that came in my show, like sure. Willie Nile, Carolyn Mass, Mariko Truffello. Sembra che queste etichette discografiche anche all'epoca non riuscissero a valorizzare i musicisti, i talenti che avevano per le mani. C'è una ragione, forse perché questi non erano abbastanza preparati. What do you think? These labels, they had such a potential in their hands, you know, people like you or Carolyn Mass, great songs, great voices, but they haven't been able to make it work. Do you think about it? Do you realize what happened? No, there's no way of telling what happened. It's a lot to do with timing, when the record came out, what were the politics in the record company at that time? Were they working together like a well-oiled machine, or were they in chaos? What time did you come out? What was the public like then? It's a combination of too many different things. I did my first record with Gary Katz, who did all Steely Dan, that was making million platinum records and million sellers. But the first one came out at the same time as like Saturday Night Fever and disco and all that stuff. And so it was another point. Meet Me at the Crux came out the same time Elvis Costello and the new wave stuff came out. You know? So it's just timing. It's luck. Dice che dipende moltissimo dal momento, perché un disco che avrebbe potuto funzionare in un certo momento magari in un altro viene coperto o trascurato da altre cose. Lui faceva l'esempio, il suo primo disco è stato prodotto da Gary Katz, che ha prodotto fra l'altro gli Steely Dan, solo con loro ha venduto non so quanti milioni di copie, però il disco uscì quando esplose la febbre del sabato sera e tutti quanti si stavano spostando verso sonorità diverse. Meet Me at the Crux, che è considerato dalla stampa generalmente il suo disco migliore, uscì proprio nel momento in cui stava nascendo la New Wave, c'era Elvis Costello e tutti quelli che l'hanno seguito, quindi si trovò ad avere una sonorità che in quel momento sembrava superata, mentre adesso magari suona meno datata. This is typical, you know, maybe your record in that moment when it came out sounded like a kind of old, but now after 30 years it sounds less old than the records that were on top of charts in those days. Yes, I hear that all the time. People tell me that all the time. Yeah, especially in the early 80s, all the records made in the early 80s, they sound like they are dated. Dated, very dated. Sì, soprattutto i dischi usciti all'inizio degli anni 80 hanno moltissimi casi, un suono molto molto datato, mentre appunto chi invece era fuori dalla moda del momento ha fatto dei dischi che riascoltati adesso hanno ancora la stessa potenza, lo stesso potere di attrarre. E stiamo parlando proprio di Meet Me at the Crux, è proprio da quell'album che Dirk ha selezionato il brano intitolato How Do You Fight Fire, e volevo chiedergli se lui è d'accordo con quello che ho letto in diverse parti, ovvero che questo sarebbe il suo disco migliore. Many journalists are saying that Meet Me at the Crux is your best record. Do you agree with them, or? It's not my job to judge and number the records. I just make the music. I don't think of my music like that. You can do that. Okay, I understand. You have children. Who's your best child? You know. Sì, dice che per un musicista è difficile fare questa differenza tra un disco e l'altro. Per lui sono tutti i dischi che ha fatto e sono come tutti figli per lui. Però è strano perché non c'è nessun disco di cui è scontento. But you are not disappointed by any of your records, maybe because you don't like the production or it was a bad moment of your life, because many musicians say that. I like them all. No, a lui piacciono tutti. Questo è bello perché... I never listen to them, but I like them. Dice, non li ascolto mai, ma mi piacciono tutti. Ok, allora ci ascoltiamo questa How Do You Fight Fire da Meet Me at the Crux da Dirk Hamilton. Flash, flash, slow. In an early April, hello. In a dream of green, one righteous man could set the city. Hello. Hear the paddle blow. We'll be right back. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo ascoltato How Do You Fight Fire? Abbiamo Dirk Hamilton qui in studio in diretta per Rock Wave qua su Blu Radio Veneto. È sempre bellissimo avere musicisti che suonano per noi e per voi naturalmente che siete dall'altra parte delle onde radio. E, dicevo prima all'inizio della trasmissione che Dirk è tornato in Italia per l'ennesima volta per un tour. Lui appunto, adesso parleremo un po' della sua esperienza italiana. Sono rimaste solo tre date. Il problema è che due sono piuttosto fuori mano per noi. Una è a Latina il 3 maggio e l'altra è a Poggio Berni, che non so dove sia, RN. Qualcuno mi sa dire che Rimini, ah, non ricordavo che c'è la provincia di Rimini. La data più vicina a Padova è l'8 maggio a Ferrara, al Tiffany, insieme a Roberto Formignani, che è un musicista italiano con cui hai collaborato. You played with Roberto and you wrote also a song with him, right? We wrote all those songs together. All the songs, okay. We've been playing together every summer for the last, I think, 7 years. Ah, quindi hanno suonato insieme. Great band. Ah, ok, perché Roberto Formignani fa parte dei Bluesmen, che è una band con cui Dirk suona tutti gli anni in Italia in estate. Quindi fa delle vacanze di lavoro. So you put together work and holidays when you come to Italy. Yep. That's. I love Italy. You love Italy. Beh, un po' tutti i musicisti amano l'Italia, dicono sempre appunto che amano venire qua, però Dirk è un habitué. What was your first time in Italy? 1988, you said? I think 1988, yeah. Sì, la prima volta nel 1988 che è venuto in Italia. With Franco Ratti and Mauro Quai and Adelmo Quadrio who booked that tour. I don't know. The first two tours. Then Carlo Carlini for like 3 or 4 years. Unforgettable Carlo Carlini. Yeah, those are some of the best years of my life. Had a lot of fun with that family. And Carlo. I knew him, yeah. Sì, ha detto appunto, ha citato i nomi di queste persone che hanno cominciato a portarlo in Italia alla fine degli anni 80 e poi negli anni 90. Soprattutto ha ricordato Carlo Carlini. Io vorrei approfittare appunto per ricordare Carlo, che è scomparso un anno, poco più di un anno fa, una persona straordinaria con cui ho condiviso alcune avventure musicali e un appassionato di musica incredibile che ci ha portato non solo Dirk ma tantissimi grandi musicisti. I think he started with me. Addirittura pare che è stato uno dei primi musicisti che ha portato Dirk, appunto Carlo Carlini. E poi non riesco neanche a contarli, perché per anni ogni anno andavo a vedere penso una dozzina di concerti organizzati da Carlo. L'ho conosciuto personalmente, abbiamo avuto modo di collaborare per qualche cosa, ed era veramente una persona che ha dato tutto per la musica. He really gave everything he had for music and musicians. He was a great soul. He was a madman too. He was the most fun I ever had with anybody, I think, was with Carlini and his family. Sì, dice, era anche un matto, un matacchione, si è divertito tantissimo con Carlo e la sua famiglia. In effetti i musicisti, questa è una cosa che ho sentito anche da altri, proprio i musicisti stranieri adoravano venire in tour in Italia con Carlo, perché non era solo una questione di lavoro ma era un po' tutto. You said what I heard from other musicians, that the whole experience was exhilarating, was a Just lot he of fun. His Volvo station wagon to tour Switzerland, yeah, all of Italy including Sicily. I had to go over the Apennines and I tried out his car and I drove it back. I said, Carlo, it's got no third gear. He goes, well, it's got first, it's got second, it's got fourth, what's the problem? And there I am going over the Apennines or in the Alps with all these Swiss people shaking their fist at me, a big line behind me, because they think I'm an stupid Italian in the Alps because I don't have a third gear. Allora, vi racconto questo aneddoto. Appunto, Carlo gli prestò una vecchia Volvo, me la ricordo, la macchina era una 244, station wagon, per fare un tour che comprendeva la Sicilia e la Svizzera, quindi potete immaginarvi il chilometraggio che ha fatto Dirk con quella macchina. E dopo averla provata disse a Carlo: guarda che la macchina non ha la terza non entrava. E la risposta di Carlo fu: scusa, hai la prima, la seconda e la quarta, a cosa ti serve la terza? Il problema è che in Svizzera nelle salite di montagna la macchina in quarta evidentemente non riusciva a salire, e quindi doveva andare in seconda, detto, con un branco di svizzeri infuriati dietro di lui che protestavano per la lentezza. Questa era, sì, una storia tipica. This is 100% Carlo. It's really nice. Oh, I think you should play a song to remember him now. Penso che adesso vi chiedo di cantare una canzone. Well, per Carlo, that changes everything. If I'm doing it for Carlo. Yeah, can you do it? Il Bosco di Pigmei. Di Pigmei? Okay. We're going to the Pigmei Forest. We're going there today. We think that it might bore us, but we're going anyway. Pygmy people may be there with their purple kinky hair. If there are no pygmies there, we don't even really care. We're going to the pygmy forest. We're going there today. Carlo. Yeah, I'm sure that Carlo will love this. So, well, another song, please. Adesso ci suona una canzone. This song just arrived one day. It's called "It Just Arrived and I Wrote It Down." Took it down. È una canzone che è arrivata un giorno e è piombata dal cielo. Sometimes they just come like that, and the best ones often just come like that. They're gifts, and you really can't take credit for writing them yourself to a large degree. Si dice, a volte queste cose succedono, sono come dei regali dal cielo, e tu non dovresti nemmeno prenderti il credito di averle scritta, perché è come se esistessero già prima che tu l'avessi scoperta. When a baby cries, it's not because it's sad. And all the suffering you do is here to teach you. It's not because you're bad. Through dreams that never last, on dandelion parachutes we pass. And everyone from everywhere has everybody's blues. Everyone gets everybody's blues. Everywhere you look, everyone you see has a story they could tell. Where comedy and tragedy hold hands and jump a wishing well. And the good guy lights the candles on the cakes, and at the bad guy's birthday party celebrates. 'Cause everyone from everywhere has everybody's blues. Everyone gets everybody's blues. Thank you. And as the echoes from the Big Bang fade, we'll be keeping every promise that was made. 'Cause everyone from everywhere is ever but as blue. Everyone, kids, everybody's blues. Everybody's Blues, anche questo è un brano che trovate nell'album Solo Mono, che appunto è uscito nel 2012. E prima stavamo parlando con Dirk, appunto lui è contento di tutti i suoi dischi, anche perché mi ha detto una cosa che raramente mi è capitato di sentire da un musicista, ovvero che ha sempre fatto quello che voleva, nel senso i dischi li ha quasi tutti prodotti da solo e ha potuto avere il controllo artistico sulla sua opera. Ed è una cosa che magari a uno che è di fuori può sembrare normale o banale, che ma se un disco c'è sopra il tuo nome si suppone che sia quello che tu volevi fare. In realtà le cose vanno in maniera molto diversa di solito nelle etichette, nella produzione discografica. Quindi io lo vedo uno molto, molto contento di sé. I have the feeling that you're very, very happy with yourself. What does that mean, Stefano? You're a satisfied man, because you have no regrets, and you are happy for what you've done in your life. This my only regret is I wish I had more money. Okay, that's everybody's regret. I'm sick of not having money, but I've done what I love. I still love what I've always done, and I'm good that way. Yeah, that's something. No? Si dice, naturalmente gli piacerebbe avere un po' più di soldi, però è soddisfatto di quello che ha fatto, e quindi è un risultato, insomma, già di alto livello. E lui, appunto, come dicevo, ha trovato in Italia una grande accoglienza. Voglio sapere se era il corrente prima di venire in Italia di essere così apprezzato. Before you came to Italy for the first time, did you know about the appreciation that the Italians had for you, to have followers in our country, or was it that a surprise for you? I first got a letter from a guy from Vicenza named Mario Misomolo. As a friend of mine. Who somehow heard about I had a new cassette out and wanted it, so I sent it to him, and I was very touched by that. And I think he told Franco Ratti about me, that he had contacted me, and Franco Ratti was a big fan, and he said, if you ever want to make a record, come to Italy, let's do a record. I love you. And eventually I did, and I ended up loving him too. He was a wonderful, honest, intelligent, sensitive man. Si è detto che ricevete una lettera da un certo Mario Misomolo, che io conosco, di Vicenza, altro grandissimo appassionato di musica, e tramite lui entrò in contatto con Franco Ratti, che gli disse: se vuoi venire in Italia a fare un disco, sei benvenuto, perché qui ti apprezziamo e quindi vorremmo proprio conoscerti di persona. Ma lui era conosciuto in Italia per i dischi fatti con la Elektra, non so però se l'etichetta l'aveva messo al corrente, ma the people at Elektra told you that your record had good reviews in Italy and they sold I don't know a few thousand copies here, or no? Mario Misomolo told me. Ah, ok. Sì, l'ha saputo appunto da Mario, dal nostro amico di Vicenza, e non dalla casa discografica. Questo è tipico delle grandi organizzazioni. Esatto, classico. Forse è il problema lì. No. E ormai hai girato un po' tutta l'Italia, penso. You saw everything of Italy, almost. In all these years? Yeah. This is the 26th year I've come to Italy. Sometimes two or three times. So I know Italy pretty well. Ah, sì. That's why my Italian is perfect. Yeah. Sì, ho detto, sono 26 anni che viene in Italia, a volte anche 2-3 volte all'anno, quindi insomma, infatti appunto riesce anche a parlare italiano senza averlo studiato. E, va bene, allora ci ascoltiamo adesso un brano che dà il titolo a un album, è un titolo abbastanza strano, Yep. Did I say it right? L'ho pronunciato giusto? Yep. Esatto. Yep. It's like yes. Yep. Ok. Direi che la risposta è stata perfetta. Allora ti ascoltiamo. Yep. When Howdy Doody was a young man, I was only 3, and I dropped my whistle in a pork chops, and it all seemed so familiar to me. One day the devil came up to me and he blew me into space. He said, you're dead now and must choose how this tricky situation you'll face. You can blend back in to the cosmic grin, but do you want to do it all again? I hesitated, the devil waited as I kicked some stars. Blue Radio Veneto, il Veneto come noi. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questo era Yep, che dava il titolo appunto al disco omonimo. E, come avete sentito, poi passando da un disco all'altro di Dirk, lui è un musicista che non è difficile chiudere in un genere, in uno stile. Passa dal blues al folk, al rock and roll, rhythm and blues. È un po' un'unione di tante musiche che arrivano dagli States. Forse l'imprinting del 1967 a San Francisco, dove c'erano appunto questa unione di talenti, gli è rimasta dentro. So you are like a collection of all the different styles of music that we can have from the US. This is coming from your background as you said in Summer of Love, where everybody was gathering around and playing together. Yeah, it's just all the stuff I loved put together. I've never made a point of trying to have one style. I just do whatever I want to do. Dice che appunto non ha mai voluto legarsi a uno stile, ma quando andava in studio l'idea era fare un disco rhythm and blues. But when you go to a studio, you had an idea in mind, said, okay, now it's time to make a record more, let's say, rhythm and blues or more rock, of course. It depends on what I'm writing. I kind of follow what I'm writing. I see that I've written like 5 songs in a certain style, and if I feel like continuing, I will. If I feel like going someplace else, I will. And whatever comes to me, too. It's kind of a magical process. Like I say, it's... Si dice che dipende da quello che sta scrivendo. Le canzoni lo portano in una direzione bella. Questa idea che sia la musica a condurre e non lui. It's like you have someone leading you, or something leading you, but you cannot control it. Non può controllarlo. Yeah, something like that. And other times I just find myself writing something or being attached to one chord progression, and it becomes a song. It's a magical kind of work, and that's what I love about it. It's the magic of it and the inspiration of it. It's indefinable. Si dice indefinibile, è una specie di magia. Si trova a seguire una serie di accordi e poi nasce una canzone, però è un processo del quale lui in pratica non ha un completo controllo. È molto bella questa cosa. C'era un disco di Van Morrison, sentito in Articulate Speech of the Heart, potrebbe essere a record from Van Morrison in Articulate Speech of the Heart, is probably trying to say, to tell the same thing, that you are taken away by something. Oh yeah, he's all into that, because he's all inspiration. I've never been moved by any artist like I've been moved at a live Van Morrison concert. I've also never been angrier than I have at the Van Morrison concert too. Yes, I have the same feeling. Sì, dice che non è mai stato in effetti trasportato, colpito da un concerto tanto quanto gli è successo con Van Morrison. Allo stesso tempo non gli è mai successo di essere tanto arrabbiato come a un concerto di Van Morrison. Lui è famoso per questo carattere un po' come dire, di difficile gestione. Bene, direi adesso un'altra canzone da Dirk, cambia l'armonica, okay, dal caricatore di armoniche che si è portato dietro. Anche io ho cambiato idea. Ok, allora lo lasciamo accordare. Vi ricordo, siamo in diretta qui su Blu Radio Veneto, ho Dirk Hamilton in studio, un grande musicista e un grande amico dell'Italia anche, e mi pare che sia pronto. This is called Where Are All the Rebels? It was written by Roberto Formignani of the Blues Men, and I wrote the lyrics and changed it into and it's on our record together, but it's also, that's coming out in May, but it's also a folk song kind of on Solo Mano. Mm-hmm. We played all night, slept all day, burned down sex like cigarettes. The glory days are gone now and I'm out on the road. But where are all the rebels? Where's the rock and roll? Where's the music? Where's the beat? Where the exiles out on Main Street? We'd broken every rule, exploded every sound. The smoke from what we did blew down to Nashville town. The glory days are gone now and I'm still out on the road. But where are all the rebels? Where'd everybody go? Where's the feeling? Where's the beat? Where the exiles out on Main Street? Of the light, the pride before the fall, the $1 million Telecaster hanging on the rich guy's wall. The glory days are gone now and I'm out on the road. A rebel shouts into the wind, man, that's the way it goes. You're the music, you're the beat, you're the exile. On Main Street. Where are all the rebels? Dove sono tutti i ribelli? Questo brano è scritto insieme a Roberto Formignani. La passione di Dirk per l'Italia tale che ha anche tradotto in inglese Andrea, un brano di Fabrizio De André e Massimo Bubola, e appunto ha questa band The Bluesman con cui suona in Italia, e c'è un disco live in uscita proprio a breve. When the live record will be available? It's not live. Oh, sorry. The new Bluesman, Dirk Hamilton and the Bluesman Records going to be available in the States in mid-May. I don't know about what's going to happen in Italy yet. I don't know what, it's not arranged. Ok, se, scusate, io avevo capito fosse un live perché si intitola Most of the Best, pensavo fosse un live per quello. E, uscirà negli Stati Uniti a metà maggio, in Italia non sa ancora quando sarà disponibile, comunque vabbè, lo trasmetteremo, quindi ve lo faremo sapere. Così, la domanda che ho fatto anche ad altri musicisti: se sente differenze suonando con musicisti italiani o americani? When you play with the Italian musicians, can you feel a different background when compared to when you play with American musicians? I haven't played with that many Italian musicians. I'm very happy with the bluesmen, though, because everyone's really good. Sì, dice, non solo con molti musicisti italiani, sono molto contento con i bluesmen perché sono tutti molto bravi. Non so, spero un giorno si riesca a organizzare di averlo qua in studio con questa band. Maybe one day you can come here with them. We'd love to. I think we'd love to. I'd love to. Okay, so you're always welcome. You just have to say when. Noi siamo sempre ben felici. Ci ascoltiamo un brano in anteprima da questo Most of the Best, intitolato The Passion of Blues, e poi ci risentiremo per i saluti e del che ci augurerà la buonanotte con un'ultima canzone. What's your name? What's your number? What's your calling? Who's your mama? Who's your daddy? It doesn't matter. A book of white says you ain't gotta be black to be blue. Come to my bed, we can figure out what really matters. Playing guitar. Jacks up drum, drums attract the bass and then the keyboards come. Hey, Muddy Waters, thanks for the music. We're eating all the records that you old guys made. Yeah, we're standing at the crossroads now, and we're dealing with the devil for the passion of blues. The passion of blues. What's your name? What's your number? What's your color? What's your sex? What's your religion? It doesn't matter. The NRS says you ain't gotta be black to sing the blues. Here in my bed, we can figure out what really matters. Jacks up drums, drums and check the bass and then the keyboards come. Hey, Lyman Hopkins, thanks for all music. We're eating up the records that you old guys made. Yeah, we're standing at the crossroads now. Yeah, we're talking with the devil, but the passion of blues. The passion of blues. The passion of blues. Got a passion for blood. Attract the bass and then the keyboards come. Elmore James, thanks for the music. For eating all the records that you old guys made. Play guitar, the chucks are drums. The drums attract the bass and then the keyboards come. Hey, Robin Jensen, thanks for the music. For eating up the records that you old guys made. Yeah, we're standing at the crossroads now. Talking to the devil by the passion of blues. The passion of blues. The passion of blues. We got a passion for blues. Hey, no. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Passion of Blues, qui avete sentito Dirk nell'altra veste, qui siamo veramente potentissimi bluesmen, possiamo essere orgogliosi di questa band italiana che suona come i grandi gruppi americani, quindi è sempre bello insomma sentire che ci facciamo valere almeno anche in queste cose. Vi ricordo che Dirk, per chi non l'avesse sentito prima, suonerà l'8 maggio a Ferrara, questa è la data più vicina al Veneto, al Tiffany, insieme a Roberto Formignani, che è il chitarrista che abbiamo sentito scatenarsi in questo brano, quindi una coppiata vincente sicuramente. E siamo alla fine di questo appuntamento con Dirk Hamilton dal vivo nei nostri studi, è stato bellissimo averti qua, Dirk. Le tue storie ci fanno sognare, ci fanno pensare all'America, ci fanno pensare alla musica e le emozioni che questa ci dà. E vi ricordo che c'è modo di acquistare i suoi dischi, di avere online shop. Yeah, but it's being reconstructed right now. Okay. But you can send money PayPal. It's bad from Italy because it costs like I have to charge $10 extra just to get it over there. Lo store so online. Come see me. I don't know what's going to happen in Italy. I'm hoping Appaloosa Records is going to release some of this stuff, or at least handle the distribution. I don't know. Sì, ho detto al momento la distribuzione italiana è un po' nel caos. Lo shop online lo stanno rifacendo. Comunque, se tenete d'occhio il sito dirkhamilton.com, se ci sono novità potete trovarle. E adesso Dirk ci suonerà un'ultima canzone per augurare a tutti la buonanotte. Io lo ringrazio ancora per essere stato con noi, è stato un grandissimo piacere. Piacere mio. Non hai bisogno della traduzione. cosa ci suoni per augurare buonanotte ai nostri ascoltatori? Ho fatto un disco con Elektra Records in 80, penso. Si chiama Thug of Love. 20 anni dopo ho composto questa canzone called I'm the Thug of Love. The Thug of Love. It's autobiographical. What? I'm the Thug of Love. It's autobiographical. Ah, autobiografica. The Thug of Love è l'assassino dell'amore. Dirk Hamilton, grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Dirk per essere stato con noi. I've been a slave, I've been the boss, singled out, double-crossed. I've run an inch and crawled a mile, I've been in and out of style. Well, I'm the next big thing that never was, spit out by a long-gone buzz. But I still stand because I'm the thug of love. I've been a rumor in my time and a legend in my room. I've cracked the egg of love to find inside true happiness and doom. No, I don't need a disguise, 'cause people look me right in the eyes and never realize that I'm the thug of love. I'm the thug of love. My daddy always said to me, you are what you decide to be. But I didn't decide to be a guitar bum, I was broke and on the run. There's 6 billion and 2 TVs to tell you you're nobody. But that's not true for me, 'cause I'm the thug of love. intrigues us, but fame can hurt us. Fame is scary, like a circus. Fame can make a man a king, then turn that king into a thing. Fame or lack of fame, both only ego pain. Laughing down the hot lane strolls the thug of love. I'm the thug of love, the thug of love. I'm the thug of love. Thank you.